Ora così parla il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché ti ho redento. Ti ho chiamato per nome. Tu sei mio. Quando attraverserai le acque, io sarò con te, ed i fiumi non ti sommergeranno. Quando camminerai in mezzo al fuoco, non brucerai, la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il Santo d'Israele, il tuo Salvatore. Ho dato l'Egitto come prezzo per te, l'Etiopia e Seba in tua vece. Perché sei prezioso ai miei occhi, hai valore, ed io ti amo. Darò uomini in tua vece e popoli in cambio di te. Non temere, perché io sono con te. Farò venire dall'Oriente la tua stirpe e ti radunerò dall'Occidente. Dirò al settentrione, rendili, e al mezzogiorno, non ricusarli. Fa venire i miei figli da lontano e le mie figlie dall'estremità della terra, quanti si chiamano con il mio nome, quelli che ho creato per la mia gloria, li ho formati e sono opera mia. Fa uscire il popolo cieco, ma che ha gli occhi, ed i sordi, che pure hanno le orecchie. Tutte le nazioni si radunino insieme e si raccolgano i popoli. Chi tra essi ha potuto annunciare questo e ci ha fatto intendere il passato? Presentino i loro testimoni per essere giustificati, perché si ascolti e si dica: è vero. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore. Voi siete i miei servi che ho eletto, perché sappiate, crediate in me e comprendiate che sono io. Prima di me non fu fatto alcun Dio, e dopo di me non vi sarà alcuno. Io sono il Signore, e dall'infuori di me non c'è alcun Salvatore. Io ho annunciato, salvato e proclamato, non un Dio straniero tra voi. Voi siete i miei testimoni, oracolo del Signore, ed io sono Dio dall'eternità, sempre lo stesso. Nessuno può liberare dalla mia mano. Agisco, e chi lo può cambiare? Così parla il Signore, il vostro Redentore, il Santo d'Israele. Per riguardo a voi ho inviato a Babilonia. Farò cadere tutte le catene, ed i Caldei eleveranno grida di dolore. Io, il Signore, sono il vostro Santo, il Creatore d'Israele, il vostro Re. Così parla il Signore che aprì una strada nel mare ed un cammino tra le acque violente, che fece uscire carri e cavalli ed un esercito potente. Essi giacciono insieme a terra, non risorgeranno, si sono spenti come uno stoppino, si sono consumati. Non ricordatevi delle cose passate, non riflettete più alle cose antiche. Ecco, io faccio una cosa nuova. Essa già si produce, non riconoscete? Sì, aprirò nel deserto una strada. Metterò fiumi nella steppa. Mi glorificheranno le bestie selvatiche, gli sciacalli e gli struzzi, perché metterò acqua nel deserto e fiumi nella steppa per dissetare il mio popolo, il mio eletto. Il popolo che mi sono formato proclamerà la mia lode. E tu, Giacobbe, non mi hai invocato, anzi ti sei stancato di me, o Israele. Non mi hai portato i tuoi agnelli in olocausto e non mi hai onorato con i tuoi sacrifici. Io non ti ho molestato con richieste di offerte e non ti ho stancato esigendo incenso. Non mi hai acquistato con denaro la cannella, né mi hai saziato con il grasso dei tuoi sacrifici. Invece mi hai molestato con i tuoi peccati e mi hai stancato con le tue iniquità. Sono io che cancello i tuoi misfatti, per il mio onore non ricordo più i tuoi peccati. Fammi ricordare, discutiamo insieme, racconta tu stesso, onde giustificarti. Il tuo primo padre peccò, i tuoi interpreti si ribellarono contro di me, i tuoi capi hanno profanato il mio santuario, perciò votai Giacobbe all'anatema ed Israele agli obbrobri.